Cari amici radiopazzoidi, bentornati a un nuovo appuntamento. Incontriamo un nuovo artista questa sera, si tratta di Giulio Ferrante. Ciao, eccoci Giulio. Qua, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Pazza, di Bach, da Giulio della Radici nel Cemento. Eccoci qui. Radici nel Cemento, vi dico subito per avere maggiori informazioni, www.radicinelcemento.it. Così l'abbiamo detto e non ci possiamo dimenticare più avanti. Esatto. Aggiungerei anche il MySpace, perché spesso mettiamo delle anteprime sullo Space, che è molto più comodo poi anche modificare rispetto al sito. Per esempio, da oggi proprio sullo Space ci sono i due nuovi singoli del gruppo. È comunque raggiungibile, no, dal vostro sito? Sì, da una pagina del sito, sì. Ok, quindi insomma è semplice, linkando qua là, saltellando per la rete. Certo. Bene, Radici nel Cemento, formazione storica del reggae italiano, nasce a Fiumicino nel 90? L'alba diciamo che risale ormai al 93, più o meno, perché diciamo che piano piano ci siamo messi insieme, abbiamo messo insieme il gruppo nel tempo e abbiamo cominciato a provare in sala circa nel 93, appunto. Poi abbiamo cominciato a suonare dal vivo dal 95. E okay, quindi ormai fanno 15 anni pieni. 15 anni, è tanto. Eh sì, 15 anni sui palchi alla fine sono parecchi. Abbiamo fatto una stima, sono sicuramente più di 1000 concerti, quindi... 1000 concerti? Eh sì, di più anche probabilmente. Fantastico. Quindi un bel po' di chilometri, un sacco di feste, insomma, quella è l'anima del gruppo poi alla fine. Ok, il vostro nome originario era Roots in Concrete, quindi da Roots in Concrete a Radici nel Cemento. Cosa è cambiato? Cosa è rimasto identico rispetto ai vostri albori? Beh, in realtà la scelta è venuta quando abbiamo dovuto pubblicare il primo disco con la Gridalo Forte Records nel 96, perché loro tenevano molto al fatto di essere italiani, insomma, quindi... Nei nostri primi pezzi, ad esempio, avevamo dei pezzi in inglese e loro li, non dico che li scartavano, però insomma ci avevano fatto capire che preferivano fare un disco dove l'italiano fosse la lingua preponderante. E a quel punto ci siamo fatti due domande anche riguardo il nome, l'abbiamo semplicemente tradotto da Roots in Concrete a Radici nel Cemento, che è la stessa cosa. Infatti a noi premeva soprattutto, quando abbiamo scelto il nome, il significato che volevamo dargli. E, insomma, questo, infatti, è un bel simbolo, no? Una radice nel cemento, che come si può leggere in giro da un po' la vostra biografia, il simbolo delle radici che cercano nutrimento nella profondità e spaccano l'asfalto. Eh sì, è una metafora, insomma. Le radici sono una cosa naturale, una cosa vera, rispetto all'asfalto, al cemento, che invece sono il simbolo, diciamo, della società che è imperante. Ok, beh, io confesso, insomma, conosco relativamente poco il genere reggae, perché ognuno ha la sua storia, insomma, e quindi ogni volta che devo incontrare qualcuno radiofonicamente parlando mi butto su Wikipedia e trovo delle cose. E infatti su Wikipedia c'è anche un argomento, cioè un approfondimento, ecco, di questo concetto, in cui si dice: più profonde vanno le radici, più in alto crescono i rami verso il cielo. Esattamente, Radici nel Cemento, che cosa cerca di comunicare al suo pubblico? Ma diciamo che come contenuti da sempre abbiamo seguito quelli che erano i nostri riferimenti negli ascolti. Cioè noi da adolescenti abbiamo cominciato a conoscere il reggae, che è una musica nera, giamaicana, nata nei ghetti negli anni 70, 60, 70, 80 poi. E quindi una musica che nasce dal basso, e allora la gente che cantava queste canzoni si esprimeva per tutti i sentimenti più comuni che ritroviamo dovunque, però spesso e volentieri c'era anche parecchia coscienza e rivendicazione di istanze loro particolari, insomma, di riscatto. E quindi le nostre tematiche alla stessa maniera cercano di seguire appunto temi anche frivoli a volte, o semplici, ma a volte anche cerchiamo di penetrare un po' più a fondo nella realtà, insomma. Sì, anche argomenti un po', ecco, non dico scabrosi, però ecco, di denuncia sociale, da quello che vedo nei vostri titoli. Anche. Comunque ne parleremo più tardi di questo. Io adesso voglio lanciare un pezzo, così non annoiamo troppo chi ascolta. E infatti, secondo la playlist che abbiamo concordato insieme, adesso ci sono i Clash con Revolution Rock. Mama. thing. And Bongo Jam's a speciality. Di nuovo qui virtualmente on air con il nostro amico Giulio Ferrante dei Radici nel Cemento, Radio Pazza, io sono Buck e andiamo avanti con questo incontro. Io volevo chiederti, Giulio, quali sono i gruppi che sentite più vicini o più simili nel panorama reggae italiano? Parliamo un po' dei sottogeneri del reggae, ska, dub, rocksteady, roots, eccetera. Guarda, è una domandona, perché mentre una volta si parlava soltanto di 4-5 nomi, ormai invece la scena è ben più affollata e ce n'è per tutti i gusti davvero. Ma sinceramente mi piacerebbe che fossimo accostati, insomma, più o meno al sound di gente come Sud Sound System, a volte Roy Paci, a volte Africa Unite, insomma, a gente che ci sa fare. Beh, effettivamente sì, sono grandi nomi, anche se poi il pubblico, quello di massa italiano, non ha ancora recepito bene questo genere, no? Sì, ma guarda, in Italia effettivamente, forse un po' a differenza di altre zone, c'è molto regionalismo pure nella musica reggae. È vero. Nel senso che ogni posto particolare in Italia ha riprodotto questa musica in modi altrettanto particolari e differenti tra loro. Ci sono delle belle caratteristiche differenti tra il reggae suonato nel Veneto, in Sicilia. Ovviamente tutti appartengono al mondo illevare, però questo è anche il bello, insomma. Sì, come ti muovi c'è un colore diverso. Io mi ricordo di Pittura Fresca, è tanto che non li sento, che non ho notizie. Pionieri, loro si sono sciolti ormai. C'è Scardi che gira da solo, però. Sì? Scardi, il cantante, sì, che gira da solo, ogni tanto fa collaborazioni. È venuto anche a cantare al nostro concerto dei 10 anni d'anniversario, ormai 5 anni fa. Personaggio lui, eh? Sì, un grande. Che tipo. Ok, quindi vabbè, andiamo al prossimo pezzo. Quindi stiamo andando molto veloci rispetto al solito, perché capita spesso, per esempio traducendo da italiano a inglese, che magari si passi a parlare per 10 minuti interi, insomma, cose bibliche assolutamente. Giulio, tu sei originario di Roma, giusto? Sì, esatto. E vivi in Sardegna oggi come oggi? Sì, mi sono trasferito da poco. Questa scelta? Ma per vari motivi, diciamo, uno dei quali è perché la mia metà è di qua. E ovvia scelta, quindi. Sì, ho deciso, insomma, di portare le radici da un'altra parte. Da Roma oltremare. E devo dire la verità, a parte un po' di zingaraggio per seguire tutte quante le storie di musica, però io mi trovo benissimo. E il tuo rapporto con la natura, quindi? Quello è la base. Sì, io campo di mare, guarda, quindi qua finalmente posso sfogare. Sei circondato, ovvio. Sì. Okay. Ci andiamo ad ascoltare quindi gli Aswad, formazione storica del reggae, che non so in che anno cominciano gli Aswad a suonare, credo negli anni 70, vero? Fine anni 70. Sì, gli Aswad sono della prima ondata, diciamo, della prima ondata europea, perché gli Aswad inglesi, giusto? In inglesi, sì. Esattamente. Ok, questa è African Children nella versione live. It's so sad, their environment, it is so bad. Rientriamo in collegamento con Giulio Ferrante dei Radici nel Cemento, io sono sempre Bach e questa è Radio Pazza. E... bene Giulio, io volevo continuare un po' sull'argomento degli incontri importanti, posso nominare Laurel Atkin, Roy Paci, Madaski, UB40, Alton Ellis, Charlie Anderson, Fermin Muguruza, insomma tutte persone che hanno in qualche modo gravitato intorno ai Radici del Cemento o viceversa. Sì, beh... con cui siamo entrati in contatto forse più Beh, il contatto è anche di più di stare semplicemente in una... Abbiamo avuto delle bellissime esperienze, alcune anche agli albori, insomma, che ci hanno formato parecchio e ci hanno insegnato tanto. Per esempio come quella con Lore Lightken, il padrino dello ska, un vecchietto di 70 e passa anni che sul palco diventava un pischello peggio di noi. Guarda, aizzava la folla ballando, e cantava e strepitava fino all'alba senza problemi. E veramente ci ha insegnato a stare sul palco e a comunicare al pubblico in una certa maniera. E poi sì, tanti altri come Roy Paci, appunto, che ha suonato in un paio di dischi nostri e ha arrangiato diverse parti di Fiati, oppure Madaschi, che ha remixato alcuni pezzi ed alcuni li ha mixati proprio di un disco nostro che è uscito per metà, appunto, mixato da lui. Madaschi, se non sbaglio, è un po' particolare, perché lui mi ricorda molto Goldi come modo di remixare, di lavorare i campionamenti, insomma, cioè, diciamo che è reggae fino a un certo punto e poi riesce a trasformare tutto in generi diversi, se non sbaglio. Beh sì, Madaschi comunque è un sperimentatore. Eh sì, è un po' particolare, sì. E invece gli Ubiforti, che mi dici? Gli Ubiforti, abbiamo avuto semplicemente l'onore di aprirgli un concerto, che è stata un'esperienza comunque bellissima, a Milano. Quante persone? Al palazzetto dello sport strapieno, ed è stato veramente uno spettacolo, anche perché in quell'occasione loro si muovevano con tutti i tecnici e tutto l'impianto loro, e quando sono arrivati parevano una carovana infinita, proprio un treno è arrivato. Erano 3-4 tir che hanno scaricato tutto, hanno sistemato tutto perfettamente, un'organizzazione incredibile. Sì, io li ho visti all'Alfeus, no, all'Alfeus era, sì, credo. Sì, all'Alfeus li ho visti recentemente qua a Roma. E sì, erano straorganizzati, si sono portati tutto da casa, anche parte del pubblico, penso siano stati parenti. Per un posto piccolino, non ti dico, un armamentario, peccato non c'era il cantante. No, però ecco, chi lo sostituiva sembrava identico, o è una tecnica vocale, o non so, era il gemello. Comunque, bella esperienza quegli anni. Sì, geniale. E bene, abbiamo nominato Alton Ellis, quindi ci andiamo ad ascoltare Ain't That Loving You. You think I love you for just one thing. To you my love it may be the way it seems, but I love the way you carry yourself. I even love the way you wear your hair. Ain't that loving you? Ain't that loving you? Far more reason than one. Somehow my love, despite the things that other men say, but I love the way you carry yourself. I even love the way you wear your hair. Ain't that loving you? Ain't that loving you? Far more reason than one. Occur to you why I do all that any man can do? You keep a smile on your face. It's because I love you, I love you, I love you in so many ways. Somehow my love, you've been misled, despite the things that other men say, but I love the way you carry yourself. I even love the way you wear your hair. Ain't that loving you? Ain't that loving you? For more reason than one. heart. I love you, darling. And I love you, I love you. Mi piace tantissimo Alton Ellis e confesso di non conoscerlo molto bene, infatti anche incontrare degli artisti di determinati generi mi aiuta a scoprire cose che mi piacciono. E Giulio, volevo chiederti, cantare in romano, no? O romanesco, sì. Non so quale termine preferisci in questo senso, ed essere allo stesso tempo global, quindi globale e locale allo stesso tempo. Lo stornello, per esempio, Me ne voglio annà, mi ricorda, mi ha ispirato anche in un particolare momento. Tu che ne pensi del cantare in romano o romanesco? Beh, che è una cosa che ci è venuta abbastanza spontanea e così come tanti altri gruppi nelle loro parti, come appunto citavi tu prima, Epitura Fresca in Veneto. Infatti. Poi su Sound System in Salentino, eccetera, e per noi è per certi versi è veramente spontaneo, è come parliamo. Infatti in realtà non è che è un romanesco che può essere paragonabile magari a quello di Trilussa o del Belli, è un romanesco dei giorni d'oggi. E poi, come annotavi tu, ovviamente a fianco al romanesco non abbiamo mai fatto mancare non solo diciamo l'italiano certo, ma anche qualche puntata anche ovviamente in inglese e perché no magari spagnolo, perché appunto cerchiamo sempre di rivolgerci a tutto il nostro pubblico sia a livello locale ma anche a livello globale, quindi sì ci piace coltivare sia il romanesco, appunto la lingua che parliamo quando scendiamo sotto casa, ma anche rivolgerci magari in inglese per qualcuno che tramite internet potrebbe ascoltarci da chissà dove. Certo, poi il nostro dialetto è comunque avvantaggiato un po' dalla TV italiana. Sì, beh, rispetto a scrivere in italiano il romanesco è molto più comodo. Comprensibile anche, sì. E invece in spagnolo avete cantato? Io non lo so. Ma guarda, abbiamo cantato qualche cover live e io ho scritto delle parti su un pezzo mio un paio di dischi fa e ci sono altre cose in cantiere, comunque proprio perché ultimamente abbiamo ripreso la voglia di scrivere, insomma di rivolgerci a livello internazionale. Ultimamente invece negli ultimi due dischi ci eravamo un po' fossilizzati sull'italiano. Anche perché la Spagna, il pubblico spagnolo è molto molto attento alle produzioni italiane, a parte storicamente ma anche di recente, non so, mi ricordo un bellissimo concerto dei Subsonica a Barcellona o comunque gruppi italiani che collaborano per esempio con Tonino Carotone eccetera, sono molto propensi alla nostra lingua. Sì, è vero, ci sta un certo link, e anche a livello di genere, perché magari per lo ska già era abbastanza conosciuto da tempo in Spagna, sì, certo. Girava parecchio. Il reggae invece mi pare che sta prendendo piede di più proprio in questi ultimi anni, e quindi sì, effettivamente potrebbe essere un momento propizio. Buono, buono. E quindi a proposito di Spagna, il nome vi dice tutto, dimmi. Tra l'altro in realtà noi in Spagna abbiamo avuto occasione di andarci a suonare già all'inizio della nostra carriera, abbiamo suonato a Barcellona, Madrid, svariate volte nei Paesi Baschi. Un piccolo tour. Sì, ci siamo tornati a più riprese, una volta anche in un bellissimo festival dove a un certo momento è apparso anche Manu Chao sul palco mentre suonava Fermin Muguruza, è stata un'esperienza fighissima. Ma ci credi, io l'ho incontrato per strada a Barcellona? Ma sì, ci credo. Passeggiava lui con la bicicletta serenamente, lo guardo e faccio Manu, ciao! No, ma non è uno scherzo, l'ho detto davvero, infatti mi viene ancora da ridere. Però sì. Disponibilissimo, si è fermato, mi ha chiesto che tal, come stai, insomma. Sì, ho incontrato anche Tonino Carotone per sbaglio su Ronda Sant'Antonio, insomma è una città che offre queste piccole occasioni. Sì, anche perché questi qui sono artisti che non è che vivono nel loro mondo, vivono nel nostro mondo, nel mondo reale, stanno lì per strada appunto in bicicletta oppure... Sì, no, persone normalissime che poi indossano gli stessi abiti che hanno sul palco, devo dire. Sì. Tonino col baffetto, il cappellino, così, come è lui. Sì. Sì, Tonino è così, io lo conosco abbastanza bene, e siamo quasi amici, insomma, ci siamo conosciuti diverse volte perché un mio amico intimo è stato per parecchi anni il suo manager qui in Italia e quindi l'abbiamo conosciuto in giro per concerti di ogni tipo, ne combina di tutti i colori quelle cose. Immagino, poi è stato spesso in Italia, lui ama il nostro paese se non sbaglio. Sì. E quindi a proposito di Spagna, dal nome avrete già capito, questi sono i Mano Negra di chi stiamo parlando e il pezzo è la versione originaria di King of Bongo. Questa era King of Bongo dei Mano Negra. Io non so voi quanto abbiate amato questo pezzo, io tantissimo, e voglio sottolineare che poi è stata scelta anche da Robbie Williams per diventare un suo singolo di successo, certo rifatto in maniera un po' diversa, però veramente un pezzo straordinario. E siamo sempre qui con Giulio dei Radici nel Cemento, voce, cantante e bassista, vero? Sì, una delle voci del gruppo, perché in realtà il nostro gruppo siamo un po' tutti, facciamo appunto un po' tutti in gruppo e quindi ci sono due. Beh, tre. È bello questo, cioè è sì, diverso da quello che capita più spesso, no? Cerchiamo di mantenere viva insomma questa, anche con qualche difficoltà magari a volte, però cerchiamo di mantenere vivo questa cosa, questa forza del collettivo. E in realtà cantiamo in due, io in realtà sarei la seconda voce perché l'altro cantante era Stablanco e canta la maggior parte dei pezzi e tra l'altro ultimamente diciamo che ha sostituito anche in parte l'altra voce storica dei Radici, che ormai è un annetto che se n'è andato per continuare la sua carriera da solo, Adriano. E come fate a lavorare, per esempio, a distanza o vi incontrate in determinati momenti? Ma un po' di tutto, sì. Come spesso funziona un gruppo, ecco? Ma noi come funziona un gruppo non lo so, come funzioniamo noi manco. Va bene, provaci dai. Più o meno. Noi più o meno ognuno ha il suo contributo personale che gli viene da solo, lo coltiva da solo, insomma lo elabora un po' e poi lo propone al gruppo e si perfeziona. Spesso per le canzoni vengono quasi per intero proposte dagli autori cantanti, ma così come nella forma, però voglio dire, certo, poi gli interventi, i contenuti delle canzoni sono praticamente le chiacchierate che ci facciamo nel furgone, per dirti. Bello. Dai, viaggi col furgone allora. A voglia. E succede di tutto nel furgone, cioè succede veramente di tutto, è un microcosmo. Senti, ma è un furgone tipo i vecchi Volkswagen che vanno tanto di moda oggi, oppure qualcosa di un po' più uno scassone, oppure un mezzo, che ne so, super moderno? Diciamo che è quello odierno di furgone è un trasporto truppe quasi comodo, mettiamola così. È un furgone, non è di quelli deluxe, però non è neanche un caro bestiame, insomma. Certo. Mentre invece all'inizio giravamo con, pensa, ad Ostia, con Prammo, dalle suore. Vecchio Fiat 238. Ah, ho capito, sì. Quale, quello che era un'ambulanza una volta, si usava come ambulanza. Sì, esatto, quello che si vede in tutti i film. Ambulanza, bravo, quel ferro vecchio là. Però era bellissimo, perché c'aveva il sedile in mezzo che era un divano. Però c'aveva qualche difetto, tipo il motore sotto al posto di guida, e che fa un caldo bestia. Estate c'erano le fiamme dell'inferno, immagino. E ci siamo arrivati a Madrid, il ritorno con valico delle Alpi sulla statale, così non pagavamo l'autostrada. Cari vecchi motori di una volta, sì, ok. Volevo chiederti, per tornare un po' su questo argomento, la musica e l'impegno sociale. Ecco, io ti dico quattro titoli e tu mi racconti un po' come nascono. Bella ciccia, Mi illumino di meno, Siamo tutti omosessuali e La bicicletta. Guarda, nascono tutti quanti appunto dall'attenzione che abbiamo avuto e cerchiamo sempre di mantenere viva riguardo tematiche più o meno gravi, mettiamola così, anche se gravi magari in apparenza, perché un tema che potrebbe sembrare frivolo come Bella ciccia in realtà può essere anche molto grave, perché riguarda anche eccessi dell'alimentazione che possono essere l'anoressia, cioè il rifiuto del cibo, oppure la bulimia, insomma bisogna vedere poi. Quindi noi lì proponiamo invece un modello di bellezza che non si basi su canoni estetici dettati dalla televisione, dove bisogna essere strafini, strafighi. Certo, poi io ti confesso insomma che apprezzo molto quando c'è un approccio, come dire, tra virgolette comico, o meglio che ammorbidisce un po' questo approccio iniziale a un argomento che magari è difficile e che ha reso la vita impossibile a molte famiglie, ecco. Non è semplice cantarlo a squarciagola ridendoci su, anche se poi sembra di riderci sopra. No, è vero, infatti, però dopo un po', insomma, quando ti convinci che è veramente la maniera migliore a volte di trattare un argomento, insomma, ne vai anche fiero. Poi non è detto che debba essere sempre così, anche perché se no, insomma, beh, certo, si sarebbe anche un po'... Serietà perpetua. Sì, voglio dire, non è che si possa sempre ridere, ogni tanto bisogna anche incazzarsi un pochettino, oppure riflettere un po' con un'atmosfera un po' più, volendo, malinconiche, perché no? Cioè, poi il ruolo dell'artista è quello semplicemente di sollevare i problemi, o secondo te, ecco, l'arte, sì, stiamo parlando comunque di musica eccetera, però può secondo te cambiare la vita di una persona profondamente? Certo che la può cambiare, secondo me la può cambiare parecchio. Per me, tra uno dei miei educatori più importanti, secondo me figura, per esempio Bob Marley, come penso in tantissimi altri, perché tanti adolescenti, quando si guardano in giro e non trovano quello che cercano, poi magari lo vanno a trovare, per esempio, in artisti che possono essere cantanti, cantautori spesso e volentieri, o anche altri tipi di artisti, però possono avere un ruolo fondamentale, e così anche le loro canzoni, quindi. Anzi, questo è, diciamo, che è un valore aggiunto che noi cerchiamo di perseguire per quello che sono i nostri mezzi e le nostre capacità, ma sicuramente è un valore aggiunto che ci gratifica parecchio, quello di cercare di non fare solamente musica da intrattenimento, ma oltre a divertire ci piace far smuovere un po' coscienze, aiutare a porsi interrogativi, insomma vedere le cose da un altro punto di vista. E ci proviamo anche noi nel nostro piccolo con Radio Pazza, vi invitiamo tutti quanti a diventare degli speaker radiofonici, magari vi fa bene all'anima, almeno a me sì. E, volevo chiederti, ecco, Mi illumino di meno, un pezzo che mi incuriosisce molto, cioè nasce da una proposta vostra o vi è stato proposto? No, guarda, Mi illumino di meno è del cantante, appunto, che ora non c'è più, che se n'è andato, non è che non c'è più. Ma sì, ho capito. E praticamente no, noi già collaboravamo con Caterpillar, questa trasmissione di Radio 2, da tempo, nel senso che all'inizio ci, tra virgolette, ci hanno scoperto loro e ci contattarono perché gli piacque un pezzo nostro del 98, mi pare, o del 2000, era Echelon e trattava il tema della privacy. E dopodiché continuarono quando, qualche anno successivamente, sentirono e gli piacque La cucina casareccia di Roma e utilizzarono anche quella parecchio come sigla, al che è venuto quasi spontaneo, appunto, proporla una sigla per la loro campagna Mi illumino di meno, che propone, appunto, il risparmio energetico, c'ha la sua giornata annuale di riferimento, eccetera eccetera. Beh, io sarei più estremo, nel senso, personalmente sarei per l'annientamento dei consumi inutili, però sì, comunque siamo lì, ecco. Mi illumino di meno, io non ho avuto il piacere di ascoltarla, ma si trova su YouTube? Sì, certo che si trova. Okay. Allora metto un link direttamente sulla playlist, così i nostri ascoltatori potranno ascoltarla, perché non è stata programmata per oggi. E un altro argomento difficile da affrontare, che molto spesso viene sottovalutato, è quello dell'omosessualità. Sì, anche questo è un argomento che molti, cioè che non molti trattano, hanno trattato, è un po' spinoso effettivamente, perché se vuoi cercare di, appunto, aiutare la gente a ragionare su questa cosa, su questo tema, cercando di non scadere nel banale, è un po' difficile, insomma, è un tema un po' complicato. Sì, poi pensateci bene, la televisione ne è piena, cioè, voglio dire, faccio un esempio, Chiamberti Night è una televisione che si basa sulla spettacolarizzazione dell'omosessualità, eppure viene sempre considerata come un fenomeno da baraccone, cioè non si pensa che queste persone possano avere degli affetti, una vita, una famiglia, comunque debbano rendere conto di chi sono di fronte all'opinione pubblica. È un po' strano, no? Sì, vabbè, è uno dei vari modi in cui si capisce che in questo mondo le cose non funzionano allo stesso modo per tutti, perché da una parte, appunto, quando conviene si utilizza l'omosessualità per spettacolarizzare l'evento e quindi lucrarci sopra. Poi dopo, invece, sempre nella stessa società, perché sempre qui parliamo, se vai a ben vedere, non solo a livello sociale, il gay, comunque l'omosessuale viene visto in maniera differente, che già è importante di per sé, ma ci sono delle vere e proprie complicazioni, dei limiti legali per queste persone ad avere gli stessi diritti. Certo, questo è un argomento importante, insomma, che è una cosa, diciamo, forse è la cosa più importante, perché appunto, come ora non ricordo chi è che lo facesse notare ultimamente, ma leggevo ultimamente, appunto, che una famiglia, quante famiglie eterosessuali ci sono, dove, insomma, non c'è molta felicità, insomma, ci sono depresse, o per non parlare di casi estremi dove magari il marito accoltella la moglie e fa fuori eventuali prole. Ma insomma, quello che conta di più è la felicità che ci sia, che c'è in famiglia. Questa non dipende dal fatto che ci sia la coppia sia etero o meno. La felicità ci può stare benissimo in una coppia gay. Importante, no, vabbè, hai detto proprio una parola importante, cioè felicità. Ecco, poi ognuno può dare la definizione che vuole, però tutti sappiamo riconoscere esattamente cosa sia. Bene, abbiamo parlato un po' di argomenti importanti e quindi ci si sposa molto bene questo pezzo di Linton Kwesi Johnson intitolato Reality Poem. This is the age of reality, but somehow we are deal with mythology. This is the age of science and technology, but somehow we are check the antiquity. But when we can't face reality, we let go with clarity. In some latch on to vanity, in some whole insanity, in some get vision. We start preach religion, but them can't make decision when it come to a fight. Them can't make decision when it come to a rights. Man, this is the age of reality, but somehow we a deal with mythology. This is the age of science and technology, but somehow we a check for antiquity. Them when they gone out of line, them not living for a time. For them say them get sign and them blind. Them eye to the light of the world, I'm gonna search within. The dark of them doom and a show about sin instead of fight to win. Man, this is the age of reality, but somehow we a deal with mythology. This is the age of science and technology, but somehow we a check for antiquity. This is the age of decision, so make we let go religion. This is the age of decision, so make we let go division. This is the age of reality, so make we let go mythology. This is the age of science and technology, so make we hold the clarity. Make we hold the clarity. Make we hold the clarity. Sono di nuovo io, sono Bach e questa è Radio Pazza. Siamo ancora in compagnia di Giulio Ferrante dei Radici nel Cemento, storica formazione reggae italiana. Giulio, volevi raccontarci un po', ecco, dei vostri progetti di quest'estate, se non sbaglio? Sì, beh, volevo dire che da adesso ripartiamo in tour per girare tutta la penisola in lungo e largo e proporre la nostra musica, quindi... Un po' di date, un po' di posti. Guarda, sto entrando nel sito. Sentivo il rumore che parte in automatico dalla vostra pagina, me la ricordo, un po' del traffico. Ho fatto anche un po' di casino. No, tranquillo, questo è un reality show quasi. Un piccolo confessionale nostrano. Allora ci siamo dentro, ora spengo anche l'audio. Così. Bello poi il sito, elaborato in maniera semplice, però carino. E guarda, l'abbiamo appena rifatto, fa piacere che ti piaccia. Allora, ti posso elencare qualche data? Certo, vai. Allora, lentamente. Adesso suoneremo il 20 maggio a Bari, al Politecnico, il 28 maggio a Reggio Calabria, al CPO Rialzo, il 29 maggio a Cosenza, al CSA Cartella, il 30 maggio a Benevento, non ricordo esattamente dove, il 25 giugno a Cantalupo, Ancona, 26 giugno a Ielsi Campobasso, 28 giugno a Roma, a Villa Ada. Villa Ada, sì, bellissimo. Un bel concerto, sì. Consiglio... Se posso vengo, molto volentieri. Non ci metto la mano sul fuoco che ho una vita di merda, però ce la metterò tutta. Chi vive a Roma spesso c'è la bella incastrata, sì. E poi tutte le altre che sono già pubblicate, alcune che continueremo a pubblicare mano a mano che verranno confermate, sempre sui nostri siti o radicinelcemento.it o sullo Space, che è radicinelcemento Space. Perfetto. E com'è il tuo rapporto col tour? Ecco, cioè, molto spesso si divide sempre in due fasi la vita di un musicista, no? Quella in cui si scrive, lo studio e poi il tour. O comunque lo spostarsi, essere un po' itinerante, eccetera. Tu come la vivi questa cosa? Ma io sono abbastanza zingaro dentro, quindi mi piace. Sempre disposto. Sì, mi piace parecchio la vita da tour. Poi è vero pure che c'ha i suoi bei momenti pesanti, anche negativi, insomma. Sì, perché... tipo? Beh, tipo quando ti capita di fare Roma, Modena, Lecce... Firenze in tre giorni di seguito e arrivi schiantato dopo un po', capito? Perché non si dorme quasi mai. Eppure che cosa scatta sul palco che un po' rigenera le forze? Là c'è la magia, perché comunque c'è un momento unico e ripetibile dove tutta una serie di macchine sta lì accese, funzionano, settate, preparate, e tu con altre 7-8 persone stai lì sopra e insieme fate funzionare una cosa che può funzionare solo così, e quindi si crea una cosa unica che insieme al pubblico diventa una cosa insostituibile. Non ci sarà MP3, sono d'accordissimo, scaricaggi, non ci sarà niente streaming che potrà sostituire un concerto. No, quello è il presente, insieme al vivo. E quindi voi riuscite anche a scrivere durante il tour oppure appuntate delle idee semplicemente? È la seconda che hai detto. Immaginavo. Un po' come faccio io, mi porto 10 milioni di canzoni da ascoltare in macchina e poi segno questa, la metto, questa no, eccetera. Però sì, è anche difficile ricordare, se non sbaglio. Sì, no, non c'è la concentrazione giusta per fare parecchio, insomma. Poi magari uno qualche idea se la appunta. Sì. E invece per quanto riguarda nuove uscite, quindi pezzi nuovi che potremo ascoltare dei Radici nel Cemento? Così, guarda, proprio adesso si conclude la vicenda di Lucantino con questo singolo che abbiamo fatto girare per 2-3 mesi con il videoclip in versione... E che ascolteremo fra un po', anticipo. E che ascolteremo tra poco, così concludiamo questa vicenda, e proprio oggi abbiamo cominciato a mettere come anteprima sul nostro MySpace i due pezzi nuovi che tra breve verranno pubblicati come altro singolo, un doppio singolo, diciamo, che sono un pezzo reggae roots, però suonato, diciamo, tutto suonato, però magari con qualche sonorità un po' moderna, e, dove collabora anche una cantante salentina molto brava, Giulia Clee, e si chiama Sole Luna il pezzo, e lo canta Rasta Blanco, mentre invece l'altro pezzo, che si chiama L'Acqua, evidentemente è dedicato a questa sostanza così preziosa che noi abbiamo voluto sostenere. Sosteniamo la causa dell'acqua, dell'acqua come bene comune. Eh sì, io sono un po' avvelenato su questa cosa. Noi parecchio anche, quindi abbiamo aderito da subito alla campagna. Perché dopo l'acqua c'è l'aria, quindi... Esatto, poi dopo... E l'aria, guarda, secondo me ci manca poco, perché in città vedrai che tra un po' si inventeranno pure bombolette sull'aria. E niente, quindi con questo pezzo qui cerchiamo di sostenere questa causa per quello che possiamo, ed è un pezzo invece che canto io, con altre sonorità, diciamo. Ecco, che tu sappia sull'acqua, appunto, esiste qualche movimento a livello nazionale, qualche associazione che sta facendo qualcosa di concreto? Sì, guarda, se ci sta un sito che è www.acquabenecomune.org, che raccoglie appunto tutta questa gente che in giro per l'Italia si riunisce e che in questo momento sta promuovendo il referendum per l'abrogazione della legge, dell'ultima legge Ronchi, del decreto Ronchi, che di questo governo qui, che alla fine, già da prima era possibile privatizzare l'ente pubblico l'acqua, ma adesso praticamente obbliga a privatizzarla, e quindi con relativi disagi per il pubblico, sì, per speculazioni, poi capirai. Speculazione principalmente, certo, perché il privato non avrà mai a cuore che il servizio funzioni bene, ma avrà a cuore semplicemente che lui intaschi la maggior quantità possibile di soldi. Ovviamente questo non è allucinante, guarda, non ho parole. Un po', veramente mi ci incazzo quando sento questa cosa. Sì, guarda, è una cosa incredibile. Ma poi più ci si informa, più si va dentro alla vicenda, e più ti incazzi, perché ti rendi conto di tutti annessi e connessi. E ovviamente, se l'acqua costa di più, non costa di più solamente l'acqua del rubinetto o l'acqua in bottiglia, costa di più anche il vino, volendo, perché per fare il vino c'è bisogno dell'acqua, costa di più l'irrigazione, quasi comunque, qualsiasi cosa, perché certo. tutti i prodotti dell'agricoltura costeranno di più. E via dicendo, le industrie hanno bisogno di grandi quantità d'acqua, certo, quindi per la lavorazione. Si parla di un bel po' di soldi, e ovviamente dove ci stanno tanti soldi ci sta parecchia speculazione, mafia, corruzione, e quindi è bene stare allerta, firmare, sottoscrivere per questo referendum, firmare, seguire questa battaglia e sostenerla, e magari ascoltatevi questo nuovo pezzo da parte della Risorgimento dedicato. Sì, no, senz'altro. Ovviamente noi rimandiamo sempre alla vostra pagina web, dove sarà possibile, credo, no? Ascoltare sul vostro MySpace, se non sbaglio. Già da oggi sul nostro MySpace, e poi prossimamente, nei prossimi giorni, probabilmente lo metteremo anche in download gratuito sul nostro sito. Fantastico, amo sempre i download gratuiti, sono i miei preferiti, confesso. No, sì. Cerchiamo di fare qualche piccolo regalo ogni tanto. Ok, carissimo Giulio, grazie della disponibilità, ci abbiamo messo tantissimo ad incontrarci, finalmente ce l'abbiamo fatta, ti chiedo scusa per i vari problemi che si sono frapposti fra noi, e bene, andiamo ad ascoltare quindi Sorugantino nella versione Dancehall Mix. Vuoi dire qualcosa su questo pezzo? Esattamente, ma guarda, molto brevemente, Sorugantino è un pezzo che sta in una delle cifre stilistiche della Risorgimento, cioè, come menzionavi tu prima, è il cantato romanesco, è un pezzo ironico che tira in ballo appunto questo personaggio tipico della cultura romana. Strapotente, no? Il menefreghista, sì, il sì, appunto, che incarna un po' tutti i pregi e difetti del romano, che è appunto quello che non si tira mai indietro a dire la sua. Deve avere sempre ragione, soprattutto appunto non riesce a sottostare a nessun tipo di sopruso, deve sempre rispondere, e questo causa anche parecchi problemi, ma soprattutto in questo caso Rugantino si guarda intorno adesso nella sua città del 2000 e passa ormai, e dà un'occhiata anche in giro per il mondo e dice la sua a riguardo. fantastico. Io me l'ascolterò insieme a tutti i nostri ascoltatori. In questo momento, carissimo Giulio, ti ringrazio per aver passato del tempo con noi. Grazie a te Bach, grazie a tutti gli ascoltatori, e vi rimandiamo ovviamente alle nostre pagine web, seguiteci e vi aspettiamo numerosi ai nostri concerti. Senz'altro. Ciao. Io cercherò di esserci a Villata, così almeno ci incontriamo di persona. E dai. E vai. Ciao, buona serata. Ciao Giulio. Ciao ciao anche a te, a voi. Ciao ciao. Ecco a voi Sorugantino nella versione Dancehall Mix. Questi sono i Radici nel Cemento. Dai sette colli vedo il mondo intero. Se giri per le strade d'ogni posto c'è la Roma. Chiudi l'occhi e ci arrivi col pensiero. So figlio di Roma, sì, ma pure del sto mondo. E invece rode che a trattarla a pugni in faccia e a grattagli pure l'anima dal fondo. C'è sta una banda di ladroni e di boiaccia. E c'è ancora chi mi dice che te la menti a fa, la roda gira, cammina, c'è il progresso. Le cose vanno bene, devi solo pazientà che non lo vedi, io sto già meglio adesso. Però la roda gira, se il progresso ci sarà mai regolato sopra il tempo dei potenti. Chi sta bene, se va pure a pendicacia, affretta chi a regge la vita con i denti. Fumantino, abituato a ragionare con la panza. Se qualcosa non mi va, mi sa rintorcio l'intestino. Come un prospero ma piscio d'eruganza. Sa Lucantino si sì, alza de core, e certe cose io te le dico in faccia. Si sei un politico, una guardia, un gran dottore. Se una linguaccia per pezzetto per signore. Combatte sto sistema, c'è chi dice non conviene, batte furbo e cerca il meglio compromesso. Ma sì, la scelta è tra grosso piccole catene, gira gira, me sento sempre infesso. Perché il progresso gira gira sempre più de fretta, e se trova manco il becco d'un salario. Se non riesci a stargli dietro, quello cuore non t'aspetta, non rimane che affidarsi a San Precario. Dai sette colli vedo il mondo intero. Si giri per le strade d'ogni posto c'è la Roma. Chiudi l'occhi e ci arrivi col pensiero. So figlio di Roma, sì, ma pure da sto mondo. E invece rode che a trattarla a pugni in faccia e a grattaglie pure l'anima dal fondo. C'è sta una banda di ladroni e di boiacce. Quando sentenziano i politici, cioè il custode di San Pietro, ci propinano divieni e soluzioni. Si abboccamo invece che avanti, a ritornamo indietro al moderno medioevo dei coglioni. E su in cima sto scalone del potere e della gloria, ci sono quelli che per loro per signore ci fanno vivere nel terrore della fine della storia. Io me incazzo e me c'ha veleno il cuore. Figlio di Roma, dai sette colli vedo il mondo intero. Si giri per le strade d'ogni posto c'è la Roma. Chiudi l'occhi e ci arrivi col pensiero. So figlio di Roma, sì, ma pure da sto mondo. E invece rode che a trattarla a pugni in faccia e a grattaglie pure l'anima dal fondo. C'è sta una banda di ladroni e di boiaccia.